Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vi dico già che per quello che riguarda l'inchiesta sulle mazzette, questa è l'ipotesi romane, il funzionario che, a cui sono stati trovati oltre 200.000 euro, vedo già molti messaggi, l'ipotesi di mazzette per aggiustare i processi, quindi ancora più grave l'ipotesi, beh, andrà in corsia preferenziale verso la nostra classifica di venerdì, quindi ne riparleremo venerdì. Mentre oggi continueremo a affrontare temi di carattere economico, non la Turchia, nel senso che continuano ad arrivare, come i nostri GR24 vi hanno raccontato, notizie molto pesanti e gravi anche sul Repulisti e sui licenziamenti che stanno colpendo praticamente tutta la parte amministrativa che Erdogan ritiene non vicina a lui, gli insegnanti delle scuole medie, gli insegnanti degli istituti privati, i rettori, i presidi, cioè nulla a che vedere con gli autori del golpe, ma qui si va alla punizione sull'ideologia. Se non sei d'accordo con Erdogan vieni licenziato e rimosso, ma dal punto di vista strettamente economico oggi non ci sono grossissime notizie anche dal punto di vista delle nostre imprese. Come oggi trovate su Sole 24 Ore, la preoccupazione è poca. Mi rendo conto che parlare di economia quando abbiamo a che fare con una Turchia in cui il Repulisti sta assumendo i contorni veri e propri di una resa dei conti, in cui si va a colpire anche chi non c'entra nulla, perché un conto è non essere d'accordo con, diciamo, il modo in cui Erdogan imposta la sua attività politica, molto legata a un islamismo moderato, molto, per alcuni versi, per alcuni molto reazionaria. Altra cosa è dare a queste persone, solo perché la penso diversamente, l'accusa di essere dei golpisti. Ma ahimè, per chi conosce Erdogan sa che il rischio c'era, il rischio di approfittare del colpo di Stato per sistemare i conti con insegnanti, giornalisti, rettori, professori, accademici, contro tutti quelli che manifestano una libertà di pensiero anche in opposizione a quella che è, il governo, stavo per dire un'altra cosa, il governo di Erdogan. Ma dicevo, dal punto di vista economico non ci sono novità, non ci sono grosse novità, e quindi ci occuperemo di che cosa? Da un lato del bail-in, perché c'è questa sentenza, adesso vi arriviamo tra poco. La Corte praticamente dell'Unione Europea ha bocciato il ricorso della Slovenia contro il bail-in e quindi ha detto attenzione, ma questo è un monito ed è una lettura, un'interpretazione che vale anche per gli altri paesi. Ha detto la Corte di Giustizia Europea, le norme del bail-in applicate alla Commissione Europea nel salvataggio delle banche slovene non vanno a violare le regole europee, quindi la ripartizione degli oneri tra azionisti e obbligazionisti subordinati non va a violare il diritto dell'Unione Europea nel campo degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata. Praticamente la Slovenia, la Corte Costituzionale Slovena, aveva fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea perché nel salvataggio del 2013, che comportò per banche slovene l'azzeramento del capitale dei soci e dei titoli subordinati, quindi gli azionisti persero tutto e anche gli obbligazionisti subordinati persero tutto, ha detto la Corte europea no, il bail-in è costituzionale. Dopodiché la comunicazione della Commissione europea sulle banche, anche se è valida, non dispensa la Commissione dall'obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro va ad invocare. Non dico che sia pilatesca, però insomma ci va vicino. Dice quello che è successo nel 2013 con la Slovenia è assolutamente costituzionale. Beh, cioè non va a violare il diritto dell'Unione Europea. Dopodiché la Commissione Europea deve, ha l'obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che venissero invocate e anche evocate da uno Stato. Questo perché sappiamo che il bail-in in questo momento preoccupa molto anche l'Italia. Cosa prevede il bail-in in vigore dal 1 gennaio? Dice sostanzialmente che nel caso di fallimento di una banca ne pagano le conseguenze gli azionisti, gli obbligazionisti di qualunque livello e se fosse necessario, anche i correntisti sopra i 100.000 euro. Arriveremo su questo, anzi tra brevissimo, perché prima vorrei raccontarvi altre notizie in breve, a partire dagli altri temi di questo programma che riguarderanno la borsa, ma anche le revisioni, ahimè, al ribasso delle prospettive di crescita economica operata dal Fondo Monetario Internazionale. La borsa, dicevamo, meno 0,60 a Milano, meno 0,78, meno 0,80 a Parigi, meno 0,90 a Francoforte, Londra invariata, Dow Jones pure, euro a quota 1,10. Tra i titoli Fiat Chrysler male, meno 3,40%, parleremo di Fiat Chrysler perché il motivo per cui il titolo va così male è andato anche peggio durante la seduta, si chiama indagine della SEC, che sarebbe la Consob americana. Fiat Chrysler è quotato infatti anche a New York, sui dati diffusi da Fiat Chrysler sulle vendite ai clienti finali negli Stati Uniti. La Fiat Chrysler Automobiles ha chiarito che sta collaborando con l'indagine della SEC sulle vendite di auto ai clienti finali negli Stati Uniti, Fiat sostiene che riporta i ricavi basati sulle consegne concessionarie ai clienti e non riporta le vendite delle auto finali. Cosa è successo? Le autorità americane stanno cercando di capire se la Fiat, che non è l'unica casa automobilistica, accuse simili sono state mosse anche a BMW, se ha gonfiato le sue vendite. Nel caso di BMW l'accusa è di aver pagato fino a $1,750 ai concessionari che avessero inserito i loro nuovi modelli nelle flotte di servizio. Nel caso di Fiat vuole capire, anche avvalendosi delle informazioni che emergeranno nella causa civile avviata da un concessionario di Napleton vicino a Chicago, il quale ha accusato Fiat Chrysler di aver gonfiato le vendite mensili premiando i concessionari per dichiarare vendite più alte di quelle realizzate e quindi falsificando i dati nell'ultimo giorno del mese per poi ricorreggerli al primo giorno del mese successivo. Secondo l'accusa del concessionario, un manager di Fiat Chrysler Automobiles gli avrebbe offerto $20,000 per dichiarare vendite false su 409 veicoli. Ne parleremo, e da qui è scattata l'inchiesta della SEC e le difficoltà del titolo, che ripeto però andava peggio prima, adesso sta leggermente recuperando, meno 3,31, Monte dei Paschi meno 3,20, Unipol meno 2, Pop Milano meno 1,80, Unipol 6 meno 1,60, Mediaset meno 1,30 come Azimut. Invece bene Saipem più 2%, Recordati più 1,70, Yux più 1,30 e Steamark Electronics più 1%. Del Fondo Monetario parleremo tra poco. Comunque ha rivisto in seguito anche alla Brexit un rallentamento delle stime nell'area europea, ma andiamo con ordine. Da un lato la Commissione Europea oggi dice che la Brexit potrebbe pesare sull'area euro intorno allo 0,1-0,2% di PIL in meno e 0,2-0,4% nel 2017, e quindi le stime previste a maggio di un'area euro che dovrebbe crescere dell'1,7% quest'anno e per il prossimo anno potrebbero essere riviste all'1,5-1,6% sia quest'anno che l'anno prossimo, anzi l'anno prossimo forse 1,3-1,5%. Poi, sempre sul tema Brexit, è intervenuto anche il Fondo Monetario Internazionale, che ha tagliato le stime di crescita dell'economia globale. Con la Brexit che rappresenta, scrive il Fondo Monetario, un importante rischio al ribasso per l'economia. Ora, a livello globale è chiaro che si spalma sulla crescita mondiale, quindi il calo è veramente poco, meno 0,1% in meno, quindi dal 3,5% al 3,4% la crescita mondiale l'anno prossimo. Negli Stati Uniti comunque vi sarà una revisione a ribasso contro un 2,5% previsto di crescita del PIL americano, l'anno prossimo si scende al 2,3%. Nell'area euro, stranamente, sul 2016 viene un po' rivisto al rialzo all'1,6%, ma mette l'indice fondamentale sui rischi i rischi che derivano dalla fragilità bancaria in alcuni paesi italiane, le banche italiane e portoghesi. Viene tagliata bruscamente la stima sulla crescita economica in Gran Bretagna, nel senso che la Gran Bretagna dall'1,9 scende all'1,7 e anche per il 2017 la crescita va dal 2% all'1,3%. Quello è un taglio pesante. Chiaro che il fondo ritiene che gli effetti più negativi della Brexit si scaricheranno soprattutto nel 2017, e quindi quasi un punto percentuale in meno. L'Italia, anch'essa animata un po' a ribasso, dall'1% di crescita quest'anno e l'anno prossimo allo 0,9% quest'anno. E però l'Italia spicca per il crollo maggiore dell'Unione Europea nell'andamento del settore dell'edilizia. La produzione edilizia infatti in Italia ha fatto meno 3,6% nel mese di maggio, dopo il più 2,2% di aprile. Dopo l'Italia c'è la Romania, meno 3%, Gran Bretagna meno 2,3%. Invece bene la produzione edilizia in Svezia, più 3,4%, Repubblica Ceca, più 2,8%, Slovenia, più 2,6%. In Germania invece, come effetto della Brexit, crolla l'indice di fiducia degli investitori tedeschi, perde quasi 7 punti in un colpo solo, è sceso dai 19,2 punti a meno 6,8, e insomma, questo la dice lunga anche sulle aspettative degli investitori tedeschi dopo il voto a sorpresa per molti dei britannici sulla Brexit. Sì, c'è qualcuno che definisce quelle di Erdogan le purghe staliniane. Sì, ci vanno molto vicino, a dimostrazione che lui è stato democraticamente eletto, ma che la Turchia sia un paese democratico è tutto da discutere. Dico che sempre democrazia intendiamo la libertà di stampa, libertà di opinione, libertà di diritti civili. No, insomma. Ma poi non era lui che l'hanno scritto tutti, ma addirittura bloccato l'uso dei social networks per poi usarli quando era in volo. E cercava di rientrare, ma per favore, insomma. Comunque su questo invece ne parliamo più avanti. Andiamo avanti con le notizie che riguardano l'Italia. Oggi è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi visitando lo stabilimento Cimberio in provincia di Novara, e ha detto: la Cimberio è la prova che l'Italia è un paese che può farcela. Sul superammortamento ne abbiamo parlato con il professor Fortis, ne ho già parlato anche con i ministri interessati. Siamo pronti a dare un'ulteriore finestra. Io ho sempre detto, nei primi mesi dell'anno non vi daremo ulteriori finestre, l'ho detto perché, come ovvio, là dove si può accelerare un investimento è giusto che si acceleri, ma se servono ancora, non possiamo renderlo strutturale, ma se serve ancora una fascia, perché le aziende che possono fare investimenti, il superammortamento di fatto è uno strumento che consente a chi vuole fare un investimento in azienda, a chi vuole tirarsi fuori i soldi e metterli in azienda, di avere uno sconto fiscale. È un fatto, credo, positivo, di avere un sostegno fiscale, mettiamola così. Siamo pronti a discutere della Sabatini, dell'abbassamento ulteriore, come ci siamo impegnati a fare, della pressione fiscale, ma credo che ci sia bisogno prima, e l'IRES passerà, come sapete, alla riduzione che abbiamo immaginato e abbiamo già annunciato, quindi non c'è notizia, è già una conferma, ma c'è una cosa da chiedervi reciprocamente: cercare insieme di uscire da questo racconto trito e ritrito per cui in Italia tutte le cose sono un problema. E poi sempre il Presidente del Consiglio ha detto che la legge di stabilità dovrà contenere un passaggio sulla proroga del superammortamento, quello che permette di andare in ammortamento al 140% di investimento sul bene. Facciamo in modo tale che gli interventi che faremo aiutino le aziende a investire e a creare nuovo lavoro, perché un paese che non crea lavoro non è un paese che rispetta la sua Costituzione. La legge di stabilità che dovremo fare dovrà contenere questo passaggio sul superammortamento. Discutiamo di come noi abbiamo fatto una serie di interventi, qualcuno piace, qualcuno no, adesso è secondo l'IMU, le 80 euro, lasciamo stare, quelli sono andati. Quelli nuovi facciamoli in modo tale che gli interventi aiutino le aziende a investire e a creare posti di lavoro. Perché se c'è un paese che ha una repubblica democratica fondata sul lavoro e c'è la gente che sta a casa e c'è i figli che stanno a casa, non è più un paese che rispetta la sua Costituzione. Ok, Allora, nel frattempo, sempre con le notizie in breve, la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta che si è conclusa ieri notte, stamattina alle 2:30 di mattina, ha approvato l'emendamento al decreto sugli enti locali che riapre la rateizzazione per i debitori verso Equitalia. L'approvazione del decreto da parte della Commissione è attesa oggi, diciamo a metà pomeriggio, in modo da portare successivamente il testo in aula. Allora, per quello che riguarda invece l'intervento del Ministro dell'Economia, Padoan oggi ha parlato in audizione, ha presentato anche i rapporti OCSE e del Fondo Monetario sul sistema fiscale italiano. Il Fondo Monetario dice che l'accumulazione di debiti fiscali è allarmante in Italia, i problemi strutturali devono essere affrontati urgentemente e il debole sistema di dichiarazione IVA, una sola l'anno, caso unico in Europa e forse nel mondo, anziché una dichiarazione IVA al mese come in molti paesi avanzati. E poi critica il Fondo Monetario la duplicazione e la suddivisione delle revisioni delle indagini fiscali attribuite a diversi soggetti. Qui siamo d'accordo. Sull'IVA io non so quanti possono essere contenti, però è vero che nella maggior parte degli altri paesi non si fa l'IVA una volta all'anno, ma ogni mese. E lo stesso Padoan ha ricordato come il gap, il tax gap sull'IVA, il 30%, la perdita di gettito, tra quello che dovresti incassare e quello che effettivamente incassi, perché poi c'è chi non la dichiara, è ancora molto alto. Il 30% è più del doppio della media di perdita di getto in Europa, che è intorno al 15%. Poi Padoan dice che la pressione fiscale si deve ridurre, le tasse si devono pagare nel modo più semplice possibile. Mentre è intervenuto in audizione in Commissione Trasporti della Camera, dicevo, sulla privatizzazione delle Poste italiane, ha detto Padoan, l'ulteriore cessione di un altro 30% di Poste italiane sul mercato potrebbe fruttare un introito intorno ai 2 miliardi di euro, il controllo resta allo Stato e quindi garantito il risparmio postale degli italiani, il conferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di una quota di Poste italiane non modifica la garanzia dello Stato sul risparmio postale. L'operazione di collocamento in esame assolverebbe all'obiettivo di attivare risorse significative da destinare alla riduzione del debito, mantenendo comunque il controllo dello Stato sulla società. L'introito derivante dalla dismissione dell'ulteriore quota di Poste italiane, sulla base delle recenti quotazioni, potrebbe aggirarsi attorno ai 2 miliardi. La realizzazione delle due operazioni, conferimento a CDP e ulteriore apertura al mercato del capitale di Poste, avrebbe come effetto, oltre al mantenimento della stabilità dell'assetto azionario di Poste italiane, anche la valorizzazione di entrambe le società coinvolte. Relativamente al risparmio postale, si precisa che lo stesso continuerà ad essere garantito dallo Stato, in base a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, anche successivamente al conferimento della quota del 35% a CDP e al collocamento dell'ulteriore quota sul mercato. Per quanto attiene infine alla gestione del risparmio postale effettuata da Poste Italiane per conto di CDP, si fa presente che la stessa è regolata da apposita convenzione fra CDP e Poste di durata quinquennale, recentemente rinnovata e valida fino al 2020. In sostanza, quindi, il conferimento a CDP della partecipazione in Poste Italiane e la futura operazione di collocamento sul mercato non modificano la garanzia statale sul risparmio postale, né i termini della convenzione fra CDP e Poste Italiane per la gestione dello stesso, dal momento che il controllo di Poste non muta, permanendo nelle mani dello Stato. Allora, adesso sentiamo su questo anche il numero uno delle Poste, Francesco Caio. Devo dare un commento ad alcuni SMS e WhatsApp al 349-238-6666. E poi c'è anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. È inutile che ogni volta che facciamo... Io capisco che alcuni di voi, ma ci mancherebbe, non amino il Presidente del Consiglio. Non so se siano maggioranza o minoranza del Paese, non siamo in grado di dirlo. Però è inutile che ogni volta che facciamo sentire il Presidente del Consiglio mi scriviate, ah, Radio Renzi, ah, lei ci fa ascoltare Renzi. Ragazzi, è il Presidente del Consiglio e questa radio svolge un'operazione, e questo programma in particolare sull'economia, di cronaca della giornata, e abbiamo sempre fatto ascoltare tutte le dichiarazioni del Presidente del Consiglio quando erano di merito, di rilievo sull'economia. Prodi, Berlusconi di nuovo, Monti, Letta e ora Renzi. mettetevi il cuore in pace, perché il Presidente del Consiglio, quando parla di economia, lo facciamo ascoltare, qualunque sia il Presidente del Consiglio, qualunque colore politico abbia. Poi uno giustamente non lo ama, l'altro lo ama, uno lo ritiene insopportabile, benissimo, ma non potete criticare il fatto che noi facciamo ascoltare il Presidente del Consiglio. Cosa facciamo sentire? E il Ministro dell'Economia vale anche per Padoan, alcuni lo considerano triste, altri a lei non me ne frega nulla, è il Ministro dell'Economia e quando parla di privatizzazione delle Poste va fatto sentire, si chiama informazione. Allora, andiamo avanti con il numero uno delle Poste italiane, Francesco Caio, sempre in Commissione Lavori Pubblici del Senato, il quale ha detto, attenzione, dal punto di vista delle Poste italiane, l'IPO, il collocamento in borsa è stato un successo, il titolo vale il 18% in più di quando l'abbiamo collocato, è stata la più grande privatizzazione europea del 2015 con oltre 3 miliardi di incasso e ha portato ad un azionariato diffuso che era uno degli obiettivi del governo. Abbiamo portato l'anno scorso, su indicazione dell'azionista governo, l'azienda in borsa ed è stata un'operazione sicuramente di successo. Secondo noi anche indice di come bene si può lavorare quando si lavora in sintonia con le istituzioni. Abbiamo fatto un grande lavoro con l'Agicom, col Mise, col MEF, con tutti, con la Banca d'Italia. Abbiamo dotato l'azienda di tutti quei sistemi di governance necessari per essere considerati come azienda investibile nella terminologia e nell'occhio dei grandi investitori privati. È stata la più grande privatizzazione europea del 2015 con un incasso di oltre 3 miliardi e soprattutto ha portato a un azionariato diffuso che era uno degli obiettivi che il governo si era posto anche per facilitare una diversificazione del risparmio degli italiani. La performance del titolo, pur in un contesto estremamente difficile, perché ricordo che da ottobre ad oggi c'è stata la tempesta dei mercati finanziari e purtroppo ancora oggi abbiamo degli aspetti critici che sono in via di risoluzione, ci auguriamo tutti, l'azione Poste ha avuto un andamento di circa il 18% migliore di quello dell'indice borsistico italiano. Oddio che palle, anche Banca Etruria informazione, infatti abbiamo parlato di Banca Etruria decine di volte, come di Cari Chieti, Ferrara, però voglio dire, no, cerchiamo di non fare gli Erdogan di casa nostra. Informazione si fa a 360 gradi, uno vuole sentire solo una certa cosa, va su un'altra radio in cui si parla solo, che vada su Radio Padania se vuole sentire solo un certo tipo di informazione e poi si arrangi. Allora andiamo avanti con invece le altre notizie. Oggi il Ministero del Lavoro ha lanciato il sostegno per l'inclusione attiva, una misura destinata alle famiglie in difficoltà. Dunque le richieste per ottenere aiuto potranno essere presentate a partire da inizio settembre. In media dovrebbero assicurare 320 euro a nucleo, coprendo 180-220.000 nuclei familiari per un totale di circa 1 milione di persone. Ora sono 750 milioni di euro, che ieri Boeri definì ancora pochi, puntiamo a un raddoppio della cifra a disposizione e poi arriva la nuova carta di pagamento elettronica che ha già un nome, carta SIA, il nuovo sostegno contro la povertà. Lo ha spiegato Simone Poletti, con la carta si possono acquistare di tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate al circuito Mastercard. Le richieste di aiuto per ottenere l'aiuto potranno essere presentate a partire da inizio settembre. Ancora due notizie. L'ABI, dunque, i prestiti restano invariati a giugno, meno 0,04%. I mutui, il tasso praticato sui mutui per la casa è a un nuovo minimo storico, al 2,21% in media. Pensate che prima dello scoppio della crisi era al 5,72% in media il tasso di interesse che si pagava per un mutuo della casa. Il 2,2 vuol dire che c'è qualcuno che lo paga all'1,2 o all'1,4 e qualcuno che lo paga al 3, chiaramente. però è il livello più basso, il minimo storico. Tornano a crescere i depositi bancari, più 3,4% segnala sempre l'ABI. E a proposito di banche, dicevamo che il primo tema riguarda, adesso affronteremo le banche anche su, intervistando chi si occupa, diciamo, di recupero crediti per le banche. Però partiamo subito dalla bocciatura della Corte Europea al ricorso fatto dalla Slovenia contro il bail-in, e quindi contro il bail-in che la Slovenia ha dovuto applicare, o meglio legata al salvataggio del 2013, che aveva comportato già al tempo l'azzeramento del capitale dei soci e dei titoli subordinati. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Sarà più facile salvare il Monte dei Paschi di Siena dopo la sentenza della Corte Europea di Giustizia in cui è stato stabilito che il bail-in è legittimo e applicabile in tutta Europa, fatto salvo alcune condizioni straordinarie per fermarlo? È la domanda che si fanno un po' tutti gli investitori oggi, e soprattutto il governo italiano, dopo che appunto dalla Corte Europea è venuto questo messaggio a tutti i paesi dell'Eurozona: il bail-in va accettato perché questo è stato stabilito per evitare che il contribuente possa farsi carico della mala gestione delle banche o addirittura delle truffe, e invece di farlo pagare agli investitori. La materia è controversa e un'analisi più approfondita della sentenza fa capire questo. Siamo alle solite: l'Europa dà un colpo al cerchio e uno alla botte, perché se da una parte riconferma la legittimità del bail-in, fatto salvo alcune contraddizioni che possono essere con le costituzioni di alcuni paesi, dall'altra parte che cosa dice? Che in condizioni straordinarie il bail-in può essere evitato e si può pensare all'aiuto di Stato, e questo è il caso del Monte dei Paschi. Ma dov'è il problema? Il problema è che non si sa quali sono queste condizioni straordinarie. Rimaniamo insomma in una zona grigia dell'Europa, quella in cui si dice rispettate le regole, queste sono le regole, ma poi nello specifico non è chiaro quali sono le eccezioni che possono permettere agli stati che più ne hanno bisogno di salvare non solo le proprie banche, ma soprattutto la fiducia dei risparmiatori, già gravemente compromessa non solo dagli scandali finanziari, ma anche da un mercato di borsa che vola ormai sulle ali dell'entusiasmo per la liquidità e sempre meno per i fondamentali dell'economia reale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. E questo è il punto di cui parleremo dopo, è un po' pilatesca la sentenza della Corte Europea, perché dice, certo, come ricordava Alessandro Platerotti, la Commissione ha l'obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca. Non si capisce però quali siano, cioè siamo in circostanze eccezionali nel caso del Monte dei Paschi? Intanto meteo e pubblicità, poi parliamo del recupero, di come le banche si stiano attrezzando comunque a cercare di recuperare i crediti in sofferenza. Focus Economia. Allora, diciamo, mentre cercheremo di capire la sentenza della Corte Europea, che cosa concretamente voglia dire, le situazioni eccezionali non sono ben definite, c'è chi continua a lavorare con le banche per cercare di aiutarle a recuperare i crediti cosiddetti in sofferenza. E allora, visto che ci avete chiesto, ringrazio per averci aggiunto in collegamento Maria Grazia Balsamo, che è curatrice dello studio di AZ Holding sulla parte crediti in sofferenza, e fa parte dell'osservatorio statistico di AZ Holding. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora, voi che cosa avete analizzato, facendolo capire a tutti, e soprattutto che incremento avete registrato, se in peggioramento o in miglioramento, rispetto al 2014? Certo, allora AZ Holding diciamo che periodicamente elabora e diffonde osservatori statistici sulla base di masse di soggetti debitori che, sulla quale, sui quali noi facciamo sia una profilazione che un recupero. Cioè prima andate a vedere le caratteristiche di chi sono. Esatto, esatto. E poi andiamo a recuperare i crediti di sofferenza. I dati elaborati nel 2015 rispetto al 2014 ci offrono un sensibile aumento nel trend occupazionale. Registriamo un aumento di soggetti debitori occupati che varia da un circa 26% nel 2014 a un 40%. No, mi scusi, debitori occupati vuol dire debitori che però hanno un lavoro? Debitori che hanno un lavoro, esatto. Oh, okay. E notiamo questo incremento, questo è importante, nel secondo semestre 2015. Cioè, se prima erano solo uno su quattro i debitori che avevano anche un lavoro, adesso sono scherzati al 40%, ho capito bene? Nel 2014 il 26%, sì. Rilevavamo come stima. Nel 2015 un 40%, quindi una percentuale a nostro parere decisamente significativa, assolutamente. Registriamo questo incremento soprattutto nel secondo semestre del 2015 e quindi possiamo riscontrare che effettivamente l'entrata in vigore di manovre come il Job Act possa aver supportato in tal senso. No, mi scusi, ma per far capire a tutti, anche a me, perché è meglio un debitore occupato che un debitore disoccupato? Ci arrivo insomma anche da solo, però sì, esatto, volevo una conferma. Sì. Quindi voi dite il fatto che su 100 debitori la percentuale di quelli che hanno un lavoro e quindi tendenzialmente potrebbero essere più in grado di ripagare, magari dilazionandolo di più il debito, sia salita dal 26% al 40%, è una buona notizia, perché la componente di chi ha un debito è sempre più fatta da chi ha anche un lavoro e non solo da chi ha dovuto purtroppo contrarre un debito perché l'ha perso il lavoro o dopodiché l'ha perso. Dov'è e come si distribuiscono a livello geografico i soggetti debitori occupati, cioè in generale? Prego. Sì, allora notiamo dal 2014 al 2015 un aumento soprattutto di soggetti debitori occupati e residenti nel centro Italia. Noi l'abbiamo spiegato e abbiamo insomma reputato che questo dato sia collegato al fatto che il centro Italia è caratterizzato da una forte concentrazione di aziende con una diciamo maggioranza di dipendenti a contratto temporaneo, per così dire. Io volevo aggiungere che sicuramente è migliore, è meglio avere un soggetto debitore occupato, perché questo rende fattibile e sicuramente agevola il processo di recupero. Ecco, e qui, mentre al sud non avete notato un miglioramento nella qualità del debitore, nelle caratteristiche del debitore? Al sud l'aumento si è avuto, ma meno significativo che al centro. Diciamo che comunque chiaramente il nostro campione è un campione parziale, fatto appunto elaborato appunto sulla massa di debitori da noi trattati. Però una caratteristica che io volevo insomma con lei andare a esaminare era che i soggetti dipendenti si sono aumentati soprattutto nel mondo privato. Sì. Perché il Jobs Act non si applicava al pubblico, purtroppo. Esatto, aggiungo purtroppo. Io, non si applicava al pubblico. Senta, ma contrariamente adesso noi trattiamo sempre il tema delle sofferenze bancarie, sappiamo che i crediti inesigibili hanno due caratteristiche. Uno, nella stragrande maggioranza dei casi sono schizzati, anzi, nella totalità dei casi sono schizzati quelli cioè i prestiti alle imprese. Se uno guarda la curva delle sofferenze bancarie relative ai mutui, agli immobili, è rimasta ferma anche dopo il 2008. Invece quella che schizza la curva dell'aumento delle sofferenze bancarie verso prestiti alle imprese manifatturiere, artigiane e quant'altro, che ha due botte, due scaloni, uno tra il 2009 e il 2010 e un altro tra il 2013 e il 2014. Voi ci state dicendo che però i nuovi debitori stanno un po' migliorando come qualità? Esatto, noi stiamo dicendo proprio questo, che il profilo socio-economico del soggetto debitore del 2015 rispetto al 2014 offre un trend positivo, E quindi questa cosa fa sì che ci sia una maggiore possibilità, un impatto quindi positivo sul recupero. Okay, e questo, crediti stessi. Sì, e quindi questo fa sì. Anche se noi sappiamo che il recupero più difficile si ha sulle imprese, non sul soggetto sul soggetto fisico, no? Sì, sicuramente diciamo non più difficile, ma prevede una strategia di recupero differente. Mm-hmm. Questo sì. Ovviamente il nostro campione è tagliato su una profilazione socio-economica del soggetto, quindi noi esercitiamo questo focus e incentrato proprio su questo. Comunque, quello che ci tenevamo a dire e a sottolineare attraverso il nostro studio che un aumento della percentuale di recupero dovuta a uno stato socio-economico migliore del soggetto fa sì che ci sia un impatto sul prezzo dei crediti significativi. Ok, ultima domanda. Noi sappiamo che mediamente le banche hanno invece le sofferenze già accumulate nel passato, non quelle nuove. Per ogni euro di credito loro ce l'hanno in bilancio a 40 centesimi, cioè hanno svalutato fino a 40 centesimi. E si dice, attenzione, ancora poco, e qui è tutta la polemica su chi deve garantire questi crediti per evitare che le banche svalutino ulteriormente, perché svalutando ulteriormente dovranno aver bisogno di nuovo capitale per i requisiti patrimoniali, fare nuovi aumenti di capitale e non si capisce dove arriverebbero i soldi. Domanda: tra i 40 centesimi su ogni euro che vantano di credito e i 20 centesimi che vorrebbero i fondi cosiddetti avvoltoio, quelli che vogliono comprare a bassissimo prezzo il credito per poi cercare di guadagnarci su quello che riescono a recuperare effettivamente, lei dove collocherebbe una media tra i 40 che vorrebbero le banche a bilancio e i 20 che vorrebbero i fondi avvoltoio? Allora, questa è una domanda diciamo molto difficile da gestire. Allora, diciamo che un valore da dare così è molto impegnativo. Certo, cambia caso per caso. Così? Cambia caso per caso, immagino. Certo, cambia caso per caso e soprattutto cambia pacchetto per pacchetto, perché ogni pacchetto poi prevede delle caratteristiche differenti. Quindi non vi volete sbilanciare. Io la ringrazio comunque anche su questo. So benissimo, lo dico a chi mi scrive, che molti crediti fanno parte, molte sofferenze sono anche di grandi gruppi per grandissime montate. Le abbiamo anche raccontate alcune. Però attenzione, guardate bene la composizione. Ci sono i grandi gruppi che hanno grandi sofferenze, ci sono però anche piccoli gruppi e oltre agli affidi fatti male per la cattiva gestione che ricordiamo ogni volta, c'è anche un paese che è andato oggettivamente in difficoltà e in crisi industriale in questi 8 anni. Grazie intanto a Maria Grazia Bassimo. Traffico. Focus Economia. Andiamo alla borsa, meno 0,50%, Parigi meno 0,60%, Francoforte meno 0,80%, Londra invariata, Dow Jones meno 0,11%. Al di là della vicenda Fiat, di cui parleremo nella seconda ora del programma, l'inchiesta della SEC su l'ipotesi di accuse di dati gonfiati sulle vendite auto, comunque il titolo ha perso il 3,40%, ma andava anche peggio prima. Monte dei Paschi meno 3,30%. Unipol sai meno 2,20 come Unipol, il 2% lo perde la Pop Milano, l'1,80 lo perde Azimut, l'1,40 Luxottica e Moncler. Invece Saipem guadagna il 2%, Recordati l'1,90, Jux l'1,12, Banca Mediolanum un mezzo punto percentuale come ST Microelectronics e Snam. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la sentenza di Slovenia, di cui abbiamo parlato ampiamente, la sentenza della Corte dell'Unione Europea sul ricorso sloveno, ha detto il bail-in è assolutamente costituzionale, però la Commissione è obbligata a prendere in considerazione le richieste di emergenza, di situazioni eccezionali che dovessero pervenire dagli Stati, senza chiarire quali sono, tutto molto molto pilatesco. La reazione del mercato? La reazione del mercato, soprattutto proprio subito dopo l'annuncio della decisione, è stata negativa, nel senso che la decisione della Corte, in cui si dice soprattutto appunto che le regole del bail-in non violano il diritto dell'Unione e che deve essere ripartita la responsabilità e anche quindi anche gli oneri sugli obbligazionisti e comunque sugli stakeholder delle banche, come dire, il mercato l'ha letta come un possibile ostacolo alle trattative in corso con l'Unione Europea. Infatti MPS ha perso il 3,3%, in generale le vendite hanno colpito tutti i titoli, nonostante poi le rassicurazioni arrivate proprio dalla Commissione Europea sul fatto che questa sentenza, secondo quanto detto proprio dalla responsabile della concorrenza UE, Vestager, non condiziona il negoziato in corso con l'Italia. Comunque gli investitori hanno preferito sposare un atteggiamento prudente. Sì, prudente. E devo dire che poteva essere anche un po' più chiara la Corte Europea. Comunque, altri titoli invece, Telecom Italia alla fine chiude invariata, per cui devono arrivare i conti di Telecom oggi, poche tensioni. Abbiamo visto andare bene Saipem, qualche recupero sul settore lusso ieri in flessione. Invece, andando sui titoli non presenti sul FTSE MIB, cioè non quelli a maggiore capitalizzazione, però con storie importanti in ogni caso, vorrei parlare da questo punto di vista anche di Amplifon, perché lì c'è notizia di mercato. Sì, Amplifon ha chiuso in rialzo del 2,32%, era arrivata a guadagnare anche di più durante la seduta. Qui il mercato ha premiato l'annuncio dell'espansione della società in Germania, che è un mercato chiave per l'azienda e leader nelle soluzioni e nei servizi per l'udito. Ha annunciato di aver acquisito due catene distributive di apparecchi acustici in Germania e che quindi naturalmente amplieranno la presenza della società sul mercato tedesco, notizia che il mercato ha apprezzato premiando i titoli per tutta la seduta. Non ho capito. Notizia che il mercato ha apprezzato premiando i titoli di Amplifon per tutto il corso della seduta di borsa. Perfetto, non l'avevo sentito. Allora, Poligrafici editoriale meno 7%, Industria Innovazione meno 6,50%, Biancamano meno 6, Agronomia meno 5,70%. Mondo TV più 11, EMS più 6,90, Clavo più 5,90, Mondo TV France più 5%. Sto ridendo, dai Paolo, su Amplifon non potevano fare la battuta. Grazie e buon lavoro anche a Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore. Migliore anche la battuta di un ascoltatore, così la Merkel ci sentirà. E vabbè, speriamo che ci senta con Amplifon o senza Amplifon sui temi che hanno creato l'impasse europea sulla crescita. Dai. Comunque, l'indice, non ho detto l'indice, meno 0,53% Milano. Ecco l'indice. E non il medio, mentre andiamo da Alessandro Merli, perché. Scusatemi, da Andrea Malan, perché avevo promesso che avremmo fatto l'approfondimento sulla Fiat. Ora la vicenda, adesso lo iniziamo, poi lo continueremo dopo anche il GR24, la vicenda è analoga a quanto è già successo alla BMW, che secondo indiscrezione avrebbe pagato fino a $1,750 ai concessionari che avessero inserito i loro nuovi modelli nelle flotte di servizio. Cioè l'accusa è che Fiat Chrysler Automobiles negli Stati Uniti, se ho ben capito, avrebbe pagato, e tutto nasce da un concessionario di Napleton vicino a Chicago, avrebbe dato soldi al concessionario $20,000 per dichiarare vendite false su 409 veicoli. Andrea Malan, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, immagino che insomma l'indagine della SEC, della Consob americana, che butta giù anche il titolo Fiat, non si limiti a 409 veicoli e $20,000 diciamo del concessionario Napleton a Chicago, con massimo rispetto per Napleton, in realtà tra l'altro questo gruppo Napleton non è, è un gruppo che è il 30° per dimensioni negli Stati Uniti tra i gruppi di concessionari, non è quindi grandissimo ma non è neanche piccolissimo, ha concessionari in 3 o 4 stati e ha fatto causa 6 mesi fa, già a gennaio. La cosa curiosa è che a gennaio, quando i termini che hai appena descritto tu erano già tutti noti, cioè si era saputo, Fiat aveva già smentito seccamente dicendo non è vero, è solo un concessionario arrabbiato perché si vede che gli abbiano dato meno vetture, ok, il titolo era crollato del 10%, fino al 10%, poi aveva chiuso a meno 8 nella seduta in cui si era saputa la notizia. Adesso 6 mesi dopo, ovviamente il fatto che la SEC indaghi è rilevante, Fiat ha rismentito e il titolo ha perso il 3%, poi ha recuperato rispetto ai minimi di questa mattina. Qual è il punto, il problema della SEC? Il problema della SEC è l'ipotesi che peraltro sia giustamente si è preoccupata di smentire ieri, è che questo giocare con le vendite, sia per poche auto o per più auto, potrebbe aver inficiato la validità dei bilanci. Fiat ha sottolineato ieri... Ed ecco perché interviene la SEC, cioè la Consob americana. E Fiat ha sottolineato che, attenzione, noi, indipendentemente da quello che possono fare i concessionari, noi calcoliamo i bilanci sulla base dei ricavi sulle auto che noi fatturiamo ai concessionari. Certo. Poi se il concessionario la immatricola 10 volte, non ha nessun impatto sul... Sui bilanci. Allora resta con noi Andrea, perché il tema è delicato e appunto la borsa ne ha preso atto. 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Andrea Malan, dicevamo, la Fiat ha ribadito che collaborerà con l'inchiesta della SEC, della Consob americana, e come tu precisavi ha detto che loro non riportano le vendite delle auto ai clienti finali, ma solo le vendite alle concessionarie. Perché però allora la borsa reagisce così male? Potrebbe essere, allora, ci sono stati alcuni report stamattina che hanno riconfermato la fiducia nel titolo, un paio di report italiani, un report anche da Londra, e tra l'altro nessuno crede che Fiat abbia davvero in qualche modo falsificato i dati di vendita. Quello che potrebbe aver giocato è un po' di preoccupazione sul mercato americano, ma più di medio periodo, cioè potrebbe essere stata un'occasione per alleggerire in vista di un mercato americano che molti ritengono essere vicino ai massimi. Quindi in prospettiva, tenuto conto dell'incertezza della Brexit e più in generale sull'economia mondiale, tenuto conto che ci sono le elezioni negli Stati Uniti e il ciclo espansivo della Fed potrebbe subito dopo finire, è stato messo un po' tutto insieme. Teniamo conto che tra l'altro ieri sera, quando è uscita la notizia, Wall Street era ancora aperta, FCA è quotata anche a Wall Street, ha perso sì il 5% in pochi minuti, ma ha poi recuperato e ha chiuso praticamente al livello della seduta precedente, quindi non ha avuto un grosso impatto via Wall Street. E quindi dici, ha incamerato tensioni anche precedenti. Staremo a vedere, perché ripeto, questa vicenda ha già coinvolto BMW, abbiamo capito benissimo la risposta di Fiat, vedremo se il mercato la penalizzerà anche domani. Ripeto, oggi perdeva anche più del 4, chiuso con un meno 3,39%. Grazie intanto Andrea Malan del Sole 24 Ore. E come anticipato, adesso passiamo all'altra notizia grossa della giornata, e mi riferisco alle stime del Fondo Monetario Internazionale che le ha riviste a livello mondiale, 1,01% di crescita in meno nel 2016, dal 3,2% al 3,1%. Nel 2017 la crescita dovrebbe consolidarsi a un più 3,4% a livello mondiale, sempre 1,01% in meno rispetto alle previsioni precedenti, come effetto dell'incertezza derivante dalla Brexit. Anche le stime americane sono riviste leggermente a ribasso. Quest'anno crescerà l'economia statunitense del 2,2%, non più del 2,5%, l'anno prossimo confermato il 2,5%. L'area euro invece ha avuto un leggero rialzo nelle stime, per quest'anno più 1,6, quindi contro l'1,5 precedentemente stimato, ma ridotte quelle del 2017 di 0,2 punti all'1,4%. C'è la Brexit, lo chiedo a Alessandro Merli, che è corrispondente su 24 Ore da Francoforte, ma segue anche spessissimi temi del Fondo Monetario Internazionale. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Chiedo, dico, c'è la Brexit, però il Fondo Monetario cita anche i problemi del settore bancario, nello specifico in Italia e in Portogallo. Ma i problemi del settore bancario in Italia sono ben noti, diciamo che non è questo la ragione del declassamento della crescita. Il declassamento della crescita è la Brexit, tra gli altri rischi è citato questo problema del settore bancario, del resto la posizione del Fondo Monetario non è nuova, nel senso che non più tardi di qualche settimana fa il Fondo Monetario ha presentato un ampio rapporto sull'Italia nel quale si diceva che appunto andava risolto urgentemente la questione la questione delle banche, insomma, quindi diciamo che da questo punto di vista il fondo oggi non ci dice niente di nuovo. È più tutto sulla Brexit. Lì il taglio più massiccio lo subisce la Gran Bretagna, perché dall'1,9 all'1,7% il PIL inglese quest'anno e l'anno prossimo, scusatemi, mentre mi correggo di nuovo, quest'anno, mentre nel 2017 il taglio che opera il Fondo Monetario sulla crescita britannica è di quasi un punto percentuale, lo 0,9, e la fa scendere all'1,3%. L'impatto sulla Gran Bretagna l'abbiamo capito, ma come fanno a stimare l'impatto anche sul resto dell'area euro? C'è una stima, lo dico con massimo rispetto, per approssimazione? Beh, per approssimazione, nel senso che lo stesso Fondo Monetario presenta tre scenari alternativi, di cui quello che hai citato è quello migliore in un certo senso. Ah, il migliore. Poi tutto dipenderà da come andrà negoziato e da una serie di fattori, il più importante dei quali non è, come di solito si pensa, il commercio, che indubbiamente è un fattore importante tra l'Europa o l'Eurozona e il Regno Unito, ma questa incertezza diffusa che c'è fra gli investitori, parliamo di investimenti delle imprese ma anche investimenti di tipo finanziario, e questa incertezza in genere sui mercati finanziari. Cioè il Fondo Monetario dice sì, i mercati hanno reagito in modo ordinato, non c'è stato nessun breakdown dei mercati come si diceva, come se che sarebbe stata un'altra Lehman eccetera, però insomma i mercati sono diventati molto più cauti, potrebbe esserci un peggioramento delle condizioni finanziarie e questo pesare anche sull'area euro, quindi diciamo che questo elemento, questa incertezza, l'elemento pesante sia sugli investimenti delle imprese sia sulla situazione dei mercati. Al momento nel Fondo Monetario, né credo nessun altro, siamo a circa 4 settimane dal risultato del voto. L'incertezza è totale su come andrà il negoziato poi tra l'Europa e Londra, quindi nessuno credo che sia obiettivamente in grado di stimare qualche certezza. Un'ultima domanda, Alessandro, non c'è nessun riferimento alle tensioni di carattere geopolitico che invece purtroppo stanno riempiendo la cronaca di questi giorni. Mi riferisco non solo a Nizza ma anche alla Turchia. Questo perché il rapporto non ha fatto tempo di includerle, o perché il Fondo Monetario, per quanto il peso politico sia molto forte, le ritiene meno con un peso economico e un impatto minore rispetto alla Brexit sulla crescita economica globale? No, diciamo che la geopolitica è citata fra i rischi potenziali al ribasso dell'economia mondiale e questo include un po' tanti fattori. Chiaramente l'elemento Turchia è difficilissimo da stimare, nel senso che questo è un fatto che veramente è successo negli ultimi 3 giorni. Comunque sicuramente il Fondo Monetario, così come anche la Banca Centrale Europea per esempio, elenca la geopolitica fra i rischi delle prospettive dell'economia. È chiaro che una stima di quello che avverrà in Turchia veramente è molto molto prematura, stiamo parlando di una cosa successa 3 o 4 giorni fa, di quali ripercussioni politiche. Tra l'altro credo che appunto comunque questi numeri del Fondo Monetario sono precedenti al tentato gol, non è che si possano aggiornare di ora in ora. Grazie anche Alessandro Melli. Andiamo sul traffico per poi parlare, diciamo, di quello che sta capitando anche nel mondo delle aziende meccaniche e quindi di una componente fondamentale del nostro PIL nelle aziende meccaniche e metà meccaniche italiane. Focus Economia. Sì, ne vorrei parlare anche di iniziative positive. Cercheremo quest'estate, compatibilmente con la cronaca che non gioca certo a nostro favore, ma di portare anche notizie di qualcosa che si sta muovendo in questo paese, perché noi raccontiamo sempre quello che c'è da fare. E mi riferisco per esempio al progetto di formazione che il mondo della meccanica, e quindi Federmeccanica per quello che riguarda l'Italia, porterà a coinvolgere da un lato 5.000 alunni e dall'altro 500 aziende, o meglio 104 aziende piccole e grandi, e i ragazzi provenienti inizialmente da 50 istituti tecnici e professionali, a cui verrà offerto un percorso di formazione on the job che andrà poi sul curriculum scolastico e già dal prossimo anno anche l'esame di Stato, in accordo con le imprese. Questa è la parte pilota per un progetto che appunto dovrà coinvolgere 5.000 alunni e 500 aziende. 1.200.000 euro messi sul piatto per attività di supporto all'ingresso dei giovani in contesti lavorativi e per formare anche dei tutor scolastici. Entro luglio, se ho ben capito, ciascuna azienda renderà noto il percorso di studio e lavoro che interesserà gli studenti degli ultimi 3 anni, intorno alle 400 ore come previsto dalla legge 107, e quindi un'alternanza vera studio-lavoro. Chiedo conferma a Federico Visentin, che è tra l'altro vicepresidente di Federmeccanica con delega all'education proprio. Buonasera Visentin. Buonasera, buonasera. E anche presidente di QOA, e quindi il Centro Universitario di Organizzazione Aziendale. Poi vorrei arrivare sulla formazione, ma insomma ci chiarisce l'obiettivo di dare una vera alternanza scuola-lavoro, anche perché da tempo Federmeccanica e Confindustria in generale si lamentava del danno che era stato arrecato alla formazione dei nostri ragazzi con la chiusura degli istituti professionali. State cercando di, non dico recuperare, ma di riportare il tema però attraverso l'operazione alternanza scuola-lavoro? Beh sì, certo, questo, diciamo che siamo molto contenti di come siamo riusciti a trovare questo spazio con la legge sulla buona scuola, e di cui un po' in qualche maniera rivendichiamo anche un po' il fatto di aver costruito noi, insomma, come Federmeccanica, questa ipotesi di lavoro proprio di fronte a un tema che in realtà vedeva il territorio nazionale vedere un po' di iniziative, buone pratiche cosiddette, no? In cui le aziende si trovavano con le scuole e facevano degli ottimi lavori sul fronte dei ragazzi, ma queste rimanevano sempre iniziative molto localizzate, molto ben specifiche, che in realtà dovevano poi anche faticare molto a trovare sempre di anno in anno i fondi per poter gestire queste iniziative. La sfida è stata quella di dire: ma perché non lo facciamo diventare sistema questo? E poi insomma il riferimento si sprecavano, i riferimenti al sistema duale tedesco, continuavamo a darci questa sfida, e su tutto c'è una grandissima sfida in realtà che riguarda le nostre imprese, per il motivo per cui ci siamo mossi come Federmeccanica, perché qui di mezzo il fatto della crescita delle nostre imprese non può che non passare, ormai questa cosa non è più un dubbio, non può che non passare attraverso portarsi sempre di più, non solamente su cose innovative, dove la creatività italiana ce l'abbiamo nel DNA, ma anche sulla capacità di fare le cose complicate, complesse dal punto di vista tecnologico e anche dal punto di vista della gestione delle complessità. Ora, tutto questo passa attraverso una migliore formazione di tutti, dei nostri dipendenti, delle nostre imprese, dei nostri collaboratori e anche degli studenti, che devono cominciare prima, non possono aspettare i famosi 18 anni in panchina, no? Prima di poter cominciare a mettere il naso nel mondo dell'impresa. Tutti questi modelli di successo che erano intorno a noi, abbiamo voluto un po' far quadrato, ne è uscita la proposta che come Federmeccanica abbiamo portato al Ministero dell'Istruzione, di questa alternanza obbligatoria. Poi vabbè, il processo, la prima formulazione che abbiamo presentato era esattamente la formulazione proposta da Federmeccanica, poi in realtà il percorso, diciamo, parlamentare ha fatto qualche modifica, tra cui introdurla da oggi al domani, quindi senza quel periodo di accompagnamento che noi prevedevamo almeno di 3 anni, oggi ce l'abbiamo obbligatorio negli nostri istituti a partire da quest'anno, e questo sta mettendo in difficoltà non poco, anche perché non basta fare una legge per far passare un cambiamento. Ma che, di cultura, nella sua esperienza, chi è più in difficoltà? Sono gli istituti che non sono attrezzati, non conoscono ancora sul territorio quali realtà industriali, quindi manifatturieri in questo caso, ma non solo, possono permettere l'alternanza scuola-lavoro? Guarda, io dico, le difficoltà sono da entrambi i versanti, perché c'è certamente da parte, allora non c'è nessuna difficoltà laddove c'è già esperienza e si è già capito cosa significa e che valore può portare a fare insieme, e laddove non si è fatto le difficoltà sono da entrambi i versanti. C'è sicuramente nel mondo della scuola una difficoltà di capire i meccanismi delle aziende, ma c'è anche da parte delle aziende che non capiscono ovviamente i meccanismi, i ritmi e anche il valore che può portare una progettazione di un percorso formativo. Progettare un percorso formativo non è così scontato, né banale, ed è uno dei limiti anche di moltissime delle nostre imprese, soprattutto quelle piccole, quelle non strutturate. Quindi la sfida è di dare, questa sfida di mettere insieme i due mondi, è una sfida che dovrebbe far crescere anche le imprese, e non solamente a forzare ad accogliere giovani studenti che possono essere un patrimonio importante, ma anche quella di diventare bravi a gestire meccanismi formativi non tanto e solo per i ragazzi e studenti, ma anche poi per il proprio personale, perché come dicevo la sfida oggi è lì. Oggi noi abbiamo talmente un divario del costo del lavoro, e non mi riferisco solo al cuneo fiscale che ci dà la distanza con i paesi occidentali come la Germania e la Francia, e questi punti ci fanno soffrire, come dice sempre il nostro presidente Boccia. Qui se non avessimo questo gap siamo secondi, ma saremmo primi in Europa se non avessimo questo gap anche del cuneo fiscale. Ma qui non è solo questo, nei paesi dell'est il costo del lavoro di basso livello vale un quarto, costa un quarto del nostro costo. Qui non c'è cuneo fiscale che tenga, qui fare l'operazione vera vuol dire rinunciare a tutta una serie di produzioni che hanno fatto, per carità, il successo del nostro paese nel dopoguerra, anche dopo, anche nel 70-80, che adesso però non può più reggere questa competizione. Quindi o le nostre aziende cambiano pelle, e per farlo, per far cose più difficili, più complesse, devono poter essere in grado di gestire la formazione continua a partire dai ragazzi delle scuole al meglio possibile. Quindi la sfida è a 360 gradi, tocca gli istituti superiori, ma tocca anche le imprese. Su questo ne abbiamo parlato molte volte, perché le imprese hanno più che le responsabilità, devono assumersi delle responsabilità. Anche il cambiamento non è più rimandabile, abbiamo detto molte volte, il piccolo è un momento della vita, non può essere un obiettivo. La capitalizzazione non può più essere delegata solo al mondo bancario, con le conseguenze che abbiamo visto poi sull'aumento delle sofferenze. Le fusioni devono essere fatte se non vi è alternativa. L'ingresso di capitale fresco può essere bancario, può essere un private equity, può essere la borsa. Insomma, non si può pensare di resistere solo, diciamo, trincerandosi in questo momento, perché si viene spazzati via. Senta, Vicentin, mi scrivono anche molti ascoltatori, ma i 40-50 anni, lì la formazione non è previsto chiaramente nell'accordo con il Ministero dell'Istruzione, quindi nell'alternanza scuola-lavoro, però certo no. E questo, insomma, no. Però lei essendo anche il numero uno della QOA, presidente appunto del Centro Universitario di Organizzazione Aziendale, c'è qualcosa che si sta facendo, che volete che si stia facendo per i 40-50 anni, cioè per chi non è che possiamo lasciarlo fuori dal mercato del lavoro, ma obiettivamente ha anche un bisogno non solo di formazione, di riqualificazione delle volte? Beh, guarda, intanto un accenno rapido facciamo anche per parlare di 45 anni, anche sul fatto che stiamo anche come Fede Meccanica rinnovando un contratto difficilissimo, su quale però, voglio dire, una parte, un pilastro importante è proprio l'aspetto della formazione. Abbiamo messo sul tavolo formazione di diritto garantito individuale per i nostri collaboratori, e questo va anche nella direzione di, sicuramente anche di 40-50 anni, perché per tutti, non è solamente per i ragazzini, e lo è anche lo scopo di eventuali riconversioni, perché il conto che le aziende non ce la facciano e abbiano a riconvertirsi e riconvertirsi anche il personale, non passa, ancora una volta passa attraverso una formazione. Ma diciamo che con il QA è chiaro che l'asse a questo punto si sposta su un'altra fascia, no? Perché il QA nasce per fare alta formazione in primis, quindi a Master in Business Administration, a Master, come si dice, Master anche per i neodiplomati, dico per neolaureati. Quindi insomma si cerca di proporsi sulla fascia alta, quindi ce n'è sicuramente per i 40-50 anni. Diciamo che la sfida lì è una sfida che riguarda molto vicino al nostro territorio, perché lei ha appena accennato, questa è anche necessità di trovare strumenti diversi, cioè le aggregazioni, la capacità di governare i mercati, perché vede, soprattutto il nostro nord-est che è fatto di piccole e medie imprese, no? Sì, non solo nord-est, anche la parte adriatica ci mancherebbe, certo. Ma certo, sì, l'Italia è piena di piccole e medie imprese dove il prodotto è stato sempre vincente, il prodotto, forse in molti casi la differenza la facevamo e la facciamo ancora magari con le tecnologie di produzione, quindi con i nostri processi produttivi, siamo dei bravissimi manufatturieri, però la capacità, quello che spesso mancante è proprio questa capacità di governare le logiche corporate. Quindi perché poi veniamo acquisiti dalle realtà estere e non siamo capaci noi di andare all'estero e di acquisire? Ci andiamo ovviamente, abbiamo delle bellissime eccellenze, ma sono delle minoranze e non sono la dimensione totale. Questa necessità di crescere, perché non succede? Allora, c'è di mezzo anche il passaggio generazionale. Ah beh, guarda, l'abbiamo detto moltissime volte, l'abbiamo raccontato in tutti i modi. Lo dico perché qualcuno mi scrive su un ascoltatore su WhatsApp al 349-238-6666, venga Barisoni in Brianza, comparto legno e arredo nel mondo dei terzisti che sono fiore all'occhiello di questo paese. La nostra forza è proprio quella di non essere grandi aziende piccole, massimo 15 dipendenti, quindi estremamente competitive, e non elefanti da muovere o da dargli da mangiare. Allora, anche qui bisogna capirsi, perché intanto il tema delle dimensioni non è un mantra unico, però tu puoi essere da questo punto di vista un terzista, come mi racconta l'ascoltatore, e quindi hai un grande a cui fornisci lavoro e va bene. Se c'è un grande nella filiera, uno che ha le dimensioni nella filiera del valore, è chiaro che i fornitori possono essere anche dimensioni più piccole, però non illudiamoci che tutta la filiera possa essere fatta solo da soggetti piccoli, perché poi o vieni comprato, come diceva Visentino, oppure non reggi proprio il confronto. Poi se c'è un grande a monte o a valle, a livello distributivo o a livello produttivo, che dicevo, tiene botta sui mercati, ha capacità di visione, ha possibilità di fare investimenti e quant'altro, e tu sei terzista, fornitore, subfornitore del soggetto, va bene. Va bene uguale. Devo anche dire che qualcuno mi scrive la stupidaggine del mito alternato scuola lavoro non ha confini, il compito della scuola non è dare lavoro, è trasmettere il livello di umanità raggiunto alla civiltà in cui si è. È lo Stato che deve creare le condizioni di lavoro, non la scuola. Poi ci stupisce se la scuola italiana è in declino. Continuiamo a scimmiottare il modello anglosassone. Guardi che il lavoro lo Stato non lo può creare, creare le condizioni, sono d'accordo. Ma non è che le due cose siano, questa fa parte dell'ideologia anche, siano in contrasto. La scuola può trasmettere il livello di civiltà, umanità raggiunto dalla cultura in cui si vive e preparare anche gli studenti, soprattutto se parliamo degli ultimi 3 anni della scuola, nemmeno più dell'obbligo, insomma, nella parte finale, può prepararli al mercato del lavoro. O cosa trasmettiamo? Solo cultura di alto livello e mai formazione? Poi il mondo anglosassone, guardi che il grande paese dell'alternanza scuola-lavoro è la Germania. Ora io la critico spesso come politica della Merkel, però alcune cose possiamo impararle come dalla Germania su questo e sul rapporto e la conoscenza di quelle che sono le logiche delle imprese, il tessuto in cui vivi. Per favore, per favore. Allora, grazie Visentini, in bocca al lupo per il progetto appunto che coinvolgerà 5.000 alunni e 500 aziende, in bocca al lupo anche come neopresidente del QOA, grazie quindi a Federico Visentini, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.